Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Questa è una puntata emblematica perché si parla della natura stessa dell'uomo, del suo essere impreparato di fronte alla diversità, e quindi è una puntata che racconta anche di cattiveria, di emarginazione, di sofferenza. Oggi raccontiamo una persona per la quale era impensabile immaginare un'esistenza anche solo sfiorata dalla felicità e dall'affetto del prossimo. E infatti è una persona che ha avuto una vita terribile nella quale ha potuto sentire dolore, la crudeltà da parte della gente, però alla fine ha avuto l'opportunità di mostrare al mondo che dietro al suo aspetto da mostro si nascondeva un animo sensibile e delicato. Oggi parliamo di Joseph Merrick, passato alla storia col suo terribile soprannome The Elephant Man. Signore e signori, il terribile uomo elefante. La nostra storia inizia a Londra. Siamo nel novembre del 1884, in piena epoca vittoriana, ai confini della City, in quella zona che i londinesi chiamano East End. Sorge il quartiere di Whitechapel, che è il cuore, l'anima popolare della capitale. In quel periodo era un luogo degradato, malfamato, era un ammasso di casupole su strade sporche, popolate da senza tetto, tra prostitute, tipi loschi che affollavano gli squallidi pub della zona. Beh, ci sono stati molti film, a me viene in mente Johnny Depp che si aggira in quelle strade. Bene, immaginate proprio un uomo ben vestito che cammina in quelle vie con lo sguardo incuriosito, attento, un uomo che si trova lì perché sta cercando qualcosa, anzi sta cercando qualcuno. A Mile End Road, di fronte al London Hospital, c'era una fila di piccoli negozi, tra questi un fruttivendolo sfitto che doveva essere affittato. L'intera facciata del negozio, ad eccezione della porta, era coperta da un telo di canapa su cui era dipinto con colori primitivi un ritratto a grandezza naturale. Quella composizione così grottesca raffigurava una spaventosa creatura che si sarebbe potuta trovare solo in un incubo. Era l'immagine di un uomo con i tratti di un elefante. L'uomo elegante è il dottor Frederick Treves, uno stimato chirurgo del Royal London Hospital. Sta camminando in quelle strade in cerca di un uomo molto particolare che un suo collega gli ha suggerito di andare a vedere. Si tratta di qualcosa di veramente terribile, ma soprattutto incredibile. Treves ha raccontato quell'esperienza nel suo libro di memorie che si chiama The Elephant Man and Other Reminiscences. I suoi occhi si posano su quello strano manifesto. Il disegno rappresenta un ambiente selvaggio fatto di palme, con al centro un essere metà uomo e metà elefante. Treves capisce di essere nel posto giusto. Proprio all'interno di quel negozio si trova il nostro protagonista di oggi. Il dottor Treves, scortato da un uomo, entra nel negozio. All'interno del locale è grigio, impolverato, squallido, semideserto, un ambiente desolante, e dentro c'è una tenda che copre l'ingresso di una seconda stanza. L'accompagnatore tira indietro la tenda e svela al dottore ciò che la tenda nasconde. Nella stanza c'è una strana figura rannicchiata davanti a un piccolo focolare, completamente avvolta da una coperta marrone. Treves, nel suo libro di memorie, descrive quella figura così strana e cupa come l'incarnazione della solitudine. L'uomo che scorta il dottore ordina a questo strano soggetto di alzarsi in piedi. Lo spettacolo lascia Treves senza parole. La creatura si alzò lentamente e lasciò cadere la coperta che avvolgeva la sua testa. Lì, in piedi, si mostrò il più disgustoso esemplare umano che avessi mai visto. Nel corso della mia professione mi ero spesso imbattuto in orribili deformazioni del volto, ma mai avevo avuto a che fare con una versione così degradata e deforme di essere umano come quella solitaria figura in piedi davanti a me. Il più disgustoso esemplare di essere umano mai visto. Sono parole terribili. Quella grande coperta marrone cade in terra, scopre un piccolo uomo ingobbito e zoppo. Ma non è la schiena così inarcata, neanche il passo claudicante a renderlo spaventoso. La caratteristica più impressionante era la sua testa enorme e deforme. Dal sopracciglio sporgeva una massa di pelle e ossa grossa come una pagnotta, così grossa da coprirgli quasi interamente un occhio, mentre dalla nuca pendeva un grumo spugnoso di pelle simile a un fungo, la cui superficie ricordava un cavolfiore. La schiena, poi, era qualcosa di orribile, perché da questa pendevano fino a metà coscia degli enormi ammassi di carne, grossi come sacchi, coperti dalla stessa ripugnante pelle a cavolfiore. E da quelle fungose escrescenze proveniva una puzza nauseabonda, impossibile da tollerare. Una testa gigantesca e deforme, la pelle gonfia e putrida che lo avvolge quasi del tutto con un odore insopportabile. Non c'è un centimetro del corpo della creatura che ricordi un uomo normale. Trips chiede alla creatura quale sia il suo nome, ma lui non parla, resta in silenzio, in piedi, si sorregge su un bastone. John Merrick, risponde il suo padrone. In realtà il nome sarebbe Joseph, ma nessuno lo chiama più così. Fin da piccolo, per un errore anagrafico, tutti lo chiamano John e così è rimasto. Ma che si chiami John o Joseph poco importa, Trace, perché si rende conto che quell'uomo, dall'aspetto così scioccante, è la più importante scoperta che lui abbia mai fatto. Il falco e il gabbiano. Londra, novembre 1884, è il luogo e il momento in cui il chirurgo Frederick Treves incontra il nostro protagonista di oggi, John Merrick, che non è un uomo come gli altri. Ha il volto, il corpo completamente deformati, con una testa gigantesca, pieno di escrescenze su tutto il corpo. Per questo è soprannominato l'uomo elefante. E il medico l'ha trovato in un negozio semiabbandonato, nascosto dal suo padrone, in una stanza fredda e umida. È lì che John passa tutto il suo tempo, tranne quando il suo padrone non lo costringe a esibirsi per il pubblico. Eh sì, in quegli anni in Inghilterra, come in altri paesi, c'è una particolarissima forma popolare di spettacolo da strada, i freak show, i cosiddetti fenomeni da baraccone. Ne abbiamo parlato altre volte, e sempre con un po' di dolore e anche di disagio per appartenere alla razza umana anche noi, perché lì si parla di spettacoli di basso livello, con l'attrazione principale costituita da personaggi stravaganti, il mangiafuoco, il mangiaspade, ma anche da persone dall'aspetto scioccante, nani, giganti, gemelli siamesi, donne barbute. Insomma, non c'era la televisione, non c'erano ancora gli spettacoli televisivi nei quali i mostri di vario genere vengono mandati davanti al teleschermo e la gente si divertiva così. Sono loro i più ricercati dal pubblico e il pubblico si diverte di fronte alle deformità altrui, alle malformazioni, alle malattie rare. C'è da chiedersi perché, probabilmente per essere confortati nella propria mediocrità, per vedere che c'è di peggio. Il pubblico, peraltro, non è un pubblico che sta solo a guardare, ma che ama deridere i protagonisti di questi show. La vita è piena di sorprese. Riflettete un momento sul destino della povera madre di questa creatura, investita mentre era quasi al quarto mese di gravidanza da un grosso elefante, da un enorme elefante. Travolta e calpestata in terra d'Africa, su un'isola sconosciuta. Signore e signori, il terribile uomo elefante. Viene costruita attorno anche questa storia ovviamente incredibile, inverosimile, però per il popolo va bene, perché mentre la nobiltà e l'alta borghesia magari vanno a vedere Shakespeare, il popolo passa il tempo deridendo dei poveri sventurati offerti al pubblico per soddisfare curiosità morbose. E c'è da chiedersi se poi siamo molto migliorati negli ultimi tempi. È un vero e proprio business, sono degli show itineranti, i protagonisti vengono spostati di città in città come bestiame. È proprio questa la vita di John, non c'è altra possibilità per uno con un aspetto del genere. Quando le persone lo incrociano si terrorizzano come fossero di fronte a un mostro, a un lebbroso, scappano oppure lo umiliano per le sue malformazioni. Lui non può vivere in mezzo agli altri, l'unica soluzione è questa, vivere segregato come una bestia per poter essere esibito. Nel mondo non c'è posto per lui, almeno fino alla notte del suo incontro con il dottor Treves. Il dottor Treves è anche un docente di anatomia, è affascinato dal caso di John, vuole studiarlo nel dettaglio, scrivere una relazione su questa rarissima patologia, chiede al padrone di John di poterlo portare subito con sé al London Hospital, però non è semplice portare John fuori allo scoperto. Perché per uscire, le poche volte in cui gli è capitato nella vita, John ha sempre dovuto travestirsi per non dare nell'occhio. Ha sempre indossato un enorme costume scuro che Treves descrive così nel suo libro. Il povero recluso doveva indossare un lungo mantello nero che arrivava a toccare il terreno e un paio di grosse ciabatte dalla forma simile a quella di una borsa in cui poter nascondere i suoi piedi deformi. Sulla testa portava un cappello di genere che non avevo mai visto prima. Era dello stesso colore nero del mantello, molto largo, simile ad un cappello da marinaio. Dato che la circonferenza della sua testa era larga quanto il girovita di un uomo, vi lascio immaginare quale fosse la misura di quel berretto. Dalla sommità del cappello pendeva un telo grigio di flanella che gli copriva per intero il viso. Su questa specie di maschera erano state ricavate due larghe fessure orizzontali che gli permettessero di guardare fuori. Vedete, una cosa veramente terribile. Treves è un uomo determinato, vuole a tutti i costi fare qualcosa per John. Riesce a portarlo in ospedale, gli consegna il suo biglietto da visita, gli dice di presentarsi con quello. Ricordiamoci di questo biglietto perché è destinato ad avere un ruolo fondamentale nella storia. Treves sottopone John a esami accurati e riesce finalmente a dare un nome alla patologia di John. È la neurofibromatosi. Non c'è cura per il momento, ma il padrone di Merrick lo reclama per i suoi affari da freak show e John deve lasciare l'ospedale. Treves lo lascia andare con dispiacere, è convinto che ormai sia un capitolo chiuso e la vita di John riprende normalmente, se così si può dire. Squallidi spettacoli in cui il pubblico non vede l'ora di deriderlo, le percosse del suo padrone, i maltrattamenti, a nessuno importa che lui debba vivere recluso come un animale, lo trattano proprio come un animale e non come un uomo a cui la natura ha giocato lo scherzo più brutto che noi possiamo immaginare. Passano 2 anni dall'incontro con Treves e John non è più in Inghilterra dove i freak show sono diventati illegali, è in Belgio dove continua la sua esistenza da fenomeno da baraccone e siccome il destino sembra divertirsi a infierire su questa povera persona le cose stanno per andare ancora peggio. Dopo qualche tempo anche in Belgio questi show vengono messi al bando e a questo punto John riceve il ben servito dal suo padrone perché non è più una fonte di profitto, viene abbandonato con pochi scellini in tasca, senza cibo e senza un posto dove andare. John è costretto a vagabondare, immaginate che cosa può essere la vita di John in questo momento, fare l'elemosina e l'obiettivo è prendere un battello, poi un treno per tornare a Londra, però il ritorno a Londra per John è terribile, amarissimo, alla stazione di Liverpool Street tutto precipita. Alla stazione si accorgono della sua mostruosità, la gente gli rivolge le solite attenzioni, sguardi curiosi, poi urla, terrore, qualcuno lo insegue come fosse un animale raro, ci sono tantissime persone, John Merrick sta per finire in guai molto seri. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia terribile, tragica di John Merrick, conosciuto come l'uomo elefante, un soprannome che una società atroce, impietosa, gli ha affibbiato per le sue incredibili deformità provocate da una malattia rarissima. È un personaggio che è entrato nell'immaginario collettivo della sua epoca come incarnazione del mostro per eccellenza. L'abbiamo lasciato nel dicembre dell'86, 1886, è arrivato a Londra in treno alla stazione di Liverpool Street e a attenderlo c'è la cattiveria della gente. La stazione è molto affollata, John è terrorizzato dagli sguardi, dalle molestie dei passanti, vuole cercare di andarsene più in fretta possibile, però viene notato, preso di mira da dei ragazzini, mentre cerca di passare urta accidentalmente una bambina. L'incidente non passa inosservato, John si trova contro una folla inferocita che lo insegue, accelera il passo, però per lui è difficile camminare, poi c'è la fatica, la paura e insomma si accascia al suolo sfinito. La folla furibonda lo circonda, pronta a linciarlo, e poco prima di svenire John grida qualcosa nel suo modo di parlare quasi incomprensibile. C'è una scena terribile che David Lynch nel suo meraviglioso film The Elephant Man del 1980 ha raccontato così. È un grido di dolore, di dignità che lo lascia stremato e che colpisce profondamente anche quella folla che era pronta a scagliarsi su di lui. Cioè, riesce a cogliere quel barlume di umanità che c'è in questi animali veri, perché poi gli animali sono loro e non lui. Adesso intorno a John si crea un silenzio assordante, arriva la polizia, lui sembra in fin di vita, nessuno sa cosa fare per aiutarlo. È qui che finalmente il destino gli regala quell'insperato colpo d'ala che cambia le sue sorti. Un agente nota che dalla tasca dell'enorme abito della palandrana di John è caduto un biglietto. È il biglietto da visita che 2 anni prima gli aveva dato il dottor Treves. E così la polizia lo contatta. Gli raccontano a Treves, i poliziotti, che alla stazione c'è uno strano individuo in gravi condizioni. Sanno solo che sta molto male, che porta in tasca un biglietto col suo nome, Frederick Treves. Il messaggero che era venuto al London Hospital per avvisarmi mi portò alla stazione. Ebbi difficoltà a farmi spazio tra la folla, ma lì a terra in un angolo c'era Merrick. Sembrava quasi che fosse stato trascinato lì come un sacco. Era così rannicchiato e raccolto su di sé che avrebbe potuto rompersi le braccia e le gambe. Ora John è al sicuro in ospedale, ha a disposizione una stanza tutta per lui dove può riposare. In realtà non potrebbe rimanere lì perché l'ospedale non può occuparsi di casi cronici come il suo, però il direttore è molto sensibile nei confronti di Merrick e della sua sciagurata situazione. Gli lascia la stanza a tempo indeterminato. Per la prima volta nella sua vita John ha finalmente trovato un luogo che può chiamare casa. Per John inizia una parentesi della sua vita e che per lui è meravigliosa, per uno costretto fino allora a vivere peggio di un animale. E per lui è la salvezza, è un ambiente caldo, accogliente, e lui che è sempre stato terrorizzato dalla gente è a suo agio in mezzo a delle persone che cominciano a preoccuparsi per lui. Per esempio il direttore dell'ospedale scrive una lettera al Times per sensibilizzare la gente nei confronti di John, e il popolo è così, no? Vaga, ondeggia, cambia opinione. Allora adesso succede che i lettori si commuovono, arrivano lettere, arriva denaro da destinare alle cure di John Merrick, i giornali inglesi cominciano a scrivere di lui, gli inglesi scoprono che dietro a quell'aspetto orribile c'è un uomo delicato e intelligente. Malgrado il suo terribile aspetto, così terribile che le donne e tutte le persone sensibili fuggono di spavento alla vista di così tanto orrore, è di un'intelligenza superiore. Sa leggere e scrivere, è calmo, dolce. La sua mente può essere definita raffinata. E in effetti la sua è veramente una mente sorprendentemente raffinata e sensibile, perché lui è un vorace lettore di libri, ha un'anima romantica, conosce a memoria tanti passi della Bibbia, ama perdersi in letture che parlino di donne, d'amore, insomma inizia finalmente a emergere la sua storia per intero, anche se lui naturalmente non ama parlare del suo passato doloroso. Proprio questa sua comprensibile riluttanza rende difficile tracciare una biografia precisa di John Merrick prima dell'incontro col dottor Treves. Quello che si sa è che è nato a Leicester nel 1862 in una famiglia molto povera e che nei suoi primi 3 anni di vita lui aveva avuto un aspetto normale. Poi erano cominciate a emergere queste escrescenze, i primi segni delle malformazioni. Poi, quando lui ha 12 anni, la madre, a cui lui era molto legato, muore. Lo lascia col padre e con la matrigna, che cambiano completamente atteggiamento nei suoi confronti. Il padre è un tipo autoritario, lo obbliga a lavorare, e la matrigna non gli nasconde il disgusto che prova per lui e per il suo aspetto, lo detesta, lo maltratta. Lui va via di casa a 16 anni, vive in strada, vive di espedienti, di piccoli lavoretti, per qualche anno vive in una specie di ospizio per poveri, per orfani, ed è costretto a lavorare in condizioni durissime. Però la sua parabola di squallore, di degrado è solo all'inizio. Riesce a scappare dall'istituto, ma fuori per lui c'è solo la cattiveria della gente. Così finisce in quel giro nel quale l'abbiamo trovato all'inizio della nostra storia, il giro dei freak show, e è convinto ormai che il suo aspetto non gli aprirà mai più nessuna porta. Adesso in ospedale il peggio sembra essere passato, però l'affetto che adesso le persone gli rivolgono non basta a spegnere il suo comprensibile sogno di normalità. E John in ospedale si sente a casa, però spera un giorno, pensate, di poter essere trasferito in un istituto per ciechi, perché è evidente, perché lì nessuno può vedere quello che c'è fuori, lì si leggono solo le anime, e lui pensa che lì magari potrà trovare l'amore di una donna che non sia terrorizzata dal suo aspetto. E quando pensa a una donna da amare se la immagina dolce, tenera, come sua madre, l'unica figura femminile di cui lui avesse un ricordo positivo. E questo suo piccolo grande sogno non si realizzerà mai. Le donne però comunque cominceranno a far parte della sua vita, perché molte signore dell'alta società che hanno letto del suo caso sui giornali cominciano ad andare in ospedale a fargli visita, perché la gente è così, poi si sente in colpa e parte la cordata di solidarietà. E arrivano i regali, donne che conversano con lui, che lo aiutano a vincere la sua timidezza con gesti affettuosi, banali per tutti noi, ma così importanti per lui, tipo c'è chi gli stringe la mano e gli sorride, e per lui questo è tantissimo. Tra queste nuove donne della sua vita, John ne ricorda e soprattutto due. E la prima non è una donna come le altre, è la regina Vittoria, che va a visitarlo spessissimo, che ogni anno per Natale gli invia un biglietto di auguri. L'altra donna della sua vita è Madge Kendall, è una famosa attrice teatrale che si affeziona visceralmente a John, gli regala una delle esperienze più belle della sua vita. John infatti è affascinato dal teatro, vorrebbe tanto poter assistere a uno spettacolo. Così una sera la Kendall gli fa riservare un palchetto in teatro, e alla fine dello spettacolo, davanti a tutto il pubblico, gli dedica un omaggio molto speciale. Signore e signori, questa è una serata davvero speciale per me, perché è davvero speciale per qualcun altro, per un uomo che conosce il teatro e che lo ama tanto, anche se questa è la prima volta che è qui tra noi. Desidero dedicare, anzi tutta la compagnia desidera dedicare lo spettacolo con tutto il cuore al signor John Merrick, un mio carissimo amico. John è un sognatore, un romantico, ha una curiosità fortissima per tutte quelle cose che fino a quel momento non aveva potuto vedere, non aveva potuto vivere tra i suoi sogni, per esempio c'è quello di visitare la campagna, di immergersi nella natura, e anche stavolta la generosità di una nobildonna inglese, Lady Knightley, gli permette di esaudire questo desiderio e lo invita a trascorrere un'estate in un cottage nella sua tenuta di campagna. E qui passa le giornate in compagnia del guardiacaccia di sua moglie, fa lunghe passeggiate sui prati verdi che tanto sognava di vedere. John è estasiato, si gode il suo ritiro estivo, è sempre con in mente un pensiero per il suo amico Treves, che lo ricorda nel suo libro. Le lettere che mi scrisse erano quelle che avrebbe potuto scrivere un bambino entusiasta e felice. Mi mandò anche alcuni fiori selvatici che aveva raccolto, erano del genere più comune, ma per lui avevano evidentemente il valore di una specie rara e preziosa. Siamo nel mese di aprile del 1890, sono passati 4 anni da quando John si è stabilito al London Hospital, 6 mesi dal suo ritorno dalla campagna. In una mattina di quel mese di aprile il dottor Treves va a fargli visita come di consueto, entra nella sua stanza, lo trova a letto, steso sulla schiena come se dormisse, ma non sta dormendo. Giace sul letto con gli occhi chiusi, il respiro gli è mancato nel sonno senza causargli sofferenza. Treves lo capisce immediatamente perché sa bene che John non avrebbe mai potuto dormire così per colpa della sua testa enorme. Doveva dormire seduto con una pila di cuscini dietro la schiena, con le gambe raccolte e la testa appoggiata sulle ginocchia. E allora perché in quella posizione? Treves, la risposta in cuor suo la conosce. Mi diceva spesso che gli sarebbe piaciuto dormire sdraiato come le altre persone. Credo che in quell'ultima notte abbia voluto provarci. Il cuscino era morbido e la testa deve essere scivolata all'indietro causando una lussazione del collo. La sua morte era soprattutto dovuta al desiderio che aveva caratterizzato tutta la sua vita, il tenero e disperato desiderio di essere come tutti gli altri. E così forse John Merrick, Joseph Merrick, ha deciso di andarsene. L'ha fatto da uomo felice, padrone della sua vita, dell'uomo accovacciato, terrorizzato, dell'uomo dal mostruoso aspetto fisico è rimasto solo un ricordo sbiadito. E mentre lo osserva per l'ultima volta, Treves pensa che si potesse dare allo spirito di John un volto umano normale. Questo volto avrebbe i tratti dell'uomo onesto, eroico, dignitoso, con i lineamenti raffinati, con gli occhi illuminati da quel coraggio grande, il coraggio degli eroi silenziosi, perché per sopravvivere in quei casi, per andare avanti, per affrontare il mondo ci vuole tanto coraggio. E solo così si può trovare finalmente un po' di pace. Il suo tormentato viaggio era giunto al termine. Aveva portato sulle sue spalle un peso troppo grande da sopportare. Era stato gettato nel pantano dell'infelicità, ma con passi virili e decisi era riuscito a portarsi sull'altra sponda. Era stato trattato come un appestato, insultato e coperto dal fango del disprezzo. Era sfuggito alla morsa della disperazione e alla fine aveva raggiunto il luogo della salvezza, là dove il suo fardello scivolò dalle sue spalle, cadde giù dalla sua schiena e non lo vide mai più. Chissà cosa ha sognato John Merrick quell'ultima notte nella quale lui ha voluto dormire sdraiato come tutti gli altri, guardando il cielo, il sole, le stelle. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto anche a dispetto del loro aspetto fisico e della cattiveria della gente. E ognuno di noi può cadere, ma può anche volare molto in alto. Se volete che io racconti delle altre storie che voi avete in mente, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, i miei nostri social, Facebook, Twitter, Instagram, insomma, se volete lo sapete, mi trovate. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese e Andrea Spenuso. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.